San Francisco, meo de Paola, chi si parla de carità, ed aiuta me soccorra mai non si necessità. Vi adoro San Francisco, con grande devozione, a chi li gide, uni, chi faccia l'orazione.